giardino segreto. Il verde dentro le città. Di Roberta Pellegatta. Domenica del 2020, buon anno anche da parte mia, molti auguri. Puntata speciale questa festiva del Giardino Segreto, in cui dimenticheremo l'inverno immaginandoci il profumo delle rose. Sarà una puntata monografica sulla regina dei fiori con un ospite d'eccezione, i cui consigli ho il piacere di farvi riascoltare. Mi chiedi perché compro riso e fiori? Compro il riso per vivere e i fiori per avere una ragione per cui vivere. Confucio. Abbiamo solo accennato finora alle rose, ma ormai siamo abbastanza maturi per incontrare questo fiore, imparare a conoscerlo e portarlo a casa nostra, in città, in giardino, oppure in vaso sul balcone, dove le rose possono servire, oltre che ad abbellire, anche a schermare o a ombreggiare. E sì, perché di rose rampicanti parliamo, grazie alla nostra ospite che con questi fiori fatti salire sugli alberi ha creato un giardino unico, entrato nel gotha dei giardini di rose a livello mondiale. Sto parlando del giardino di Valleranello, a Roma, creato dal nulla da Maresa del Bufalo 50 anni fa, dopo che per 15 anni la stessa, nei suoi 2 ettari, tutto aveva piantato tranne le rose, che non amava. Poi la folgorazione, dopo aver visitato in Toscana la collezione Fineschi. Questa signora delle rose, Maresa del Bufalo, va dicendo di avere 90 anni. Non so se crederle, certo è che è qui con noi al Giardino Segreto. Buongiorno. Buongiorno. Sarà stufa di essere definita la regina delle rose, oppure no? Ma sì, come regina poi mi fa proprio ridere. La regina della rosa, non certo io. Ma qualche volta mi hanno chiamato la mamma, siccome io sono già mamma di 5 figli e mamma di tanti altri che con piacere mi hanno detto mamma Marè, mi chiamano. Allora io ho detto, mi sembra più giusto forse la mamma delle rose, perché io la prendo un po' così, con tanta passione, con amore. Perché Maresa del Bufalo ha uno dei roseti più belli del mondo, possiamo dire, a Roma. Guarda, ne ho visti tantissimi di giardini di rose bellissimi, quindi del mondo non so. Però certo ho una raccolta di rose particolari, questo sì. E infatti io non volevo rose per i primi 15 anni, perché avendo cominciato il mio giardino in un periodo in cui si vendevano solo rose moderne, e moderne dal nome Asso di Cuori, Regina di qui e di là, erano tutti quelli che io chiamavo un po' i carciofoni. I carciofoni, cioè, quindi lei intende le rose che vengono regalate a mazzi, quelli con lo stelo lungo, che io sono sempre felice di ricevere, intende le rose classiche dei fioristi? Diciamo delle rose moderne, ecco, chiamiamo moderne, anche se tutte le rose che io ho nate dopo aver messo il mio giardino si possono considerare rose moderne, perché io ho cominciato il giardino metà del Novecento, diciamo. Quindi sono tutte rose moderne, moderne nel senso che sono nate dopo gli anni 60, ecco. Quindi vengono considerate rose moderne, ma tutta un'altra cosa, sono un genere diverso, perché sono nate ibridate con tutte rose antiche. Capito, rose particolari. Quindi lei aveva questo giardino a Valleranello che per 15 anni lei ha curato, escludendo le rose, perché le associava appunto a queste rose moderne dei fioristi a stelo lungo. Non desideravo rose, diciamo, nel primo periodo, perché allora non si trovavano le rose che poi io ho desiderato, cioè delle rose antiche, delle rose diverse, delle rose che vengono dall'Himalaya. Adesso io ho una collezione di rose tale che viene dal professor Fineschi, il nostro grande rosaista, perché siamo arrivati quasi a 8.000 varietà. Quelle del professor Fineschi? Del professor Fineschi. A Firenze? Sì, meravigliose. Ci sono sia le moderne che le antiche. Però io quando ho visto la sua collezione tra gli anni 60 e 70 mi sono resa conto che io quelle, le rose, le volevo. Quindi il suo amore per le rose è scoppiato vedendo, visitando le rose, la collezione di rose che era già ricchissima ai tempi, esatto, del professor Fineschi. Sì. Ma che cosa l'ha incantata di questi fiori? La grazia, il portamento, forse ecco, questa è la cosa principale, il portamento. Cioè come si gestisce tutta la rosa nell'insieme. perché ritornando alle rose moderne, che io non volevo, sono rose rigide, rose che hanno un unico lungo gambo con su una rosa sola, quella che io chiamo carciofone, e basta, sono rose da poter tagliare e fare dei mazzi, cosa che in giardino non mi interessa assolutamente. Infatti in genere in giardino, se uno vuole coltivare delle rose da potersi mettere poi in casa, allora le mette in orto, nell'orticello, insieme a tutti i cosi si mettono anche questo genere di rose che non hanno un bel portamento, un morbido portamento, è tutto l'insieme. Ormai nei suoi oltre 2 ettari di giardino ci sono 1200 varietà di rose, 1200? Ma, sì, penso, guardi, io ormai non lo so più perché non le conto. Immagino. E sicuramente ho passato i 1000. Ne ho alcune gigantesche come la gigantea dell'Himalaya, che si chiama La Follette, scritto La Follette, ed è una meraviglia. E pensi sono 25 metri sugli alberi. Chi viene a visitare, perché è naturalmente visitabile il roseto di Valle Ranello, troverà, diciamo, alberi di rose, in sintesi. Ebbene, alberi dove le rose sono salite, i poveri alberi non si sa più che fine possono fare. Questo è il guaio. Perché lei, infatti, non avendo più muri, ha dovuto ricorrere agli alberi. Esatto. E avendo cominciato prima con tutte le varie rosacee, essendo una rosa, cercando di mettere sulla famiglia delle rosacee. Invece poi alla fine ho messo qualsiasi altro albero in giardino col pensiero di mandare sopra rose. Rose rampicanti su meli, ciliegi, fichi? Ciliegi, peri, esatto. Poi devo dire che in realtà le rose hanno sempre un po' soffocato tutti gli alberi da frutta. Poi dipende, perché per esempio non esiste albero che mantenga su una gigantea. La Follette da me è andata su 3 alberi vicini, una dopo l'altro, capito? E c'è invece un albero che resiste bene alla rosa e che in qualche modo, dalla sua esperienza, lei può consigliare per essere un ottimo, come si può dire? Ma guardi, il migliore tutto sommato, proprio per come dispone le fronde, diciamo, lasciando aria e possibilità alla rosa di entrare, e c'è anche molta resistenza, direi che è la Melia Azedarac. È un albero che si chiama albero dei rosari anche. È un albero sfogliante intanto. Poi ha dei fiori lilla molto carini, dei mazzi di fiori profumatissimi. Dopo il fiore sta tutto gruppi di bacche verdi che alla fine diventano giallo oro. Sono anche abbastanza belli come alberi, solo che sono velenosi, ecco. Quindi l'albero che ben si adatta alle rose, questo è un consiglio prezioso, è la Melia Azedarac con l'H finale. Ecco, è un albero. È nato in Oriente, diciamo nei paesi abbastanza caldi. La melia si dispone, ripeto, come fronde, in maniera molto leggera. Allora la rosa si arrampica facilmente. Ora consideri che per conto mio, quando si pone una rosa sotto un albero per farla arrampicare, ovviamente deve essere una rosa che di per sé ha queste caratteristiche di arrampicarsi, deve essere posta dalla parte sud dell'albero, diciamo a seconda della grandezza dell'albero che potrà diventare l'albero, si mette a un metro e mezzo, due dall'albero, si fa una bella buca, si mette lì e dietro si costruisce una scaletta, almeno come faccio io, una scaletta di bambù che è anche molto carina per poterla far arrampicare. A un certo punto, dopo un anno o due, prenderà il suo via per conto suo e allora possiamo levare la scaletta, mandiamo sulla rosa, lei farà quello che vuole e si muoverà, deciderà lei. L'unica cosa, io la pongo a sud dell'albero e deciderò anche che tipo di albero rispetto alla fioritura, perché ogni albero ha la sua fioritura, il suo colore, e rispetto a quello ogni albero ha la rosa che gli si addice come fioritura, come colore, diciamo. Uh-huh. E vedere se sono contemporanee le fioriture, perché è importante, perché certe volte le fioriture sono contemporanee e uno non bada bene che siano dei colori che si accordano bene, bisogna stare molto attenti. Io non metto mai una rosa così su un albero, penso sempre a quello che succederà in seguito, quando loro si uniranno e cominceranno a fiorire o nello stesso tempo oppure in tempi diversi. E la rosa che viene messa ovviamente a sud dell'albero, perché la rosa ai piedi vuole sole, deve essere posta rispetto all'albero a sud, sì. Però lei deciderà nelle parti nuove di andare verso nord. Questa è stata l'osservazione principale che ho dovuto, direi, un po' subire, perché non me l'aspettavo mai. Io mettevo la rosa a sud perché sapevo che doveva stare a sud, e poi pensavo di vederla scendere dall'albero completamente a sud, cioè che la rosa desiderasse con tutti i rami nuovi venire a sud e fiorire tutte da quella parte. Poi ha scoperto il motivo. Sì, se si pensa che la rosa vuole il sole solo d'inverno e invece d'estate cerca il fresco, si capisce perché la crescita reale della rosa avviene dopo la fioritura, la crescita nuova avviene dopo la fioritura, e quindi è un periodo assolutamente estivo, e quindi è necessario assolutamente che la pianta vada verso nord, dentro l'albero, perché così trova il fresco. Trova il fresco, ma ritroverà il sole in inverno una volta che l'albero si sarà spogliato dalle foglie. Perfettamente. Questo si parla ovviamente di alberi sfoglianti. Ecco, da questo si capisce che i sempreverdi non vanno bene. Esatto, non consiglio mai di mettere. E se si mette il sempreverde, si può anche mettere, però non sarà mai bene. Non lo so, perché io non l'ho messo da nessuna parte. Ecco, e noi ascoltiamo i suoi consigli, perché si tratta di decenni di osservazione, di esperienza, esatto, e di reciproco, esatto, amore, per cui noi li seguiamo. Sì. Ci ho vissuto per tanti anni ormai, facendo giri nel giardino quanti più è possibile, un minimo di 3 giri al giorno, anche quando piove, ovviamente, perché anche quando piove si fa il giro, si va a vedere con l'ombrello quello che succede, se piove male, se c'è troppo vento, quello che può succedere. E le rose si accorgono se lei non c'è? Sì, questo è in dubbio. Io oramai ci conosciamo tanto bene, le rose e io, che mi rendo conto che cosa succede quando io ritorno. Se mi metto su questa strada e dico delle cose assurde, allora lasciamo perdere. No, ma noi la capiamo. Arrivo a delle cose con le mie rose che io, quando mi avvicino con la faccia, loro cominciano a muoversi. E siccome loro, è vero, perché ogni rametto della rosa tende sempre ad appoggiarsi a qualche cosa che gli sta quasi vicino, capisce? Quindi è ovvio che loro cominciano a muoversi appena sentono una cosa molto vicina, anche che non li tocca. Però loro si muovono naturalmente, perché la rosa è fatta così, perché ha bisogno di arrampicarsi, e appena sente il ramo nuovo, appena sente che c'è vicino qualcosa, tende a lui per poter girare, capito, attorno e arrampicarsi. Ecco perché. Però dico che loro mi cercano, mi accarezzano, mi vogliono bene. Ho detto, ripeto, meglio che non cominci un discorso del genere, perché diventa poi per forse molta gente assurdo. E diventa pieno di emozioni e di sentimenti. Quando si parla di giardini, di fiori, di piante, sempre lì si va a finire poi, sull'amore, sul sentimento, perché è così. Ma d'altro canto sono vive, ma vive in un modo eccezionale, E fanno cose. Adesso ci sono libri che raccontano veramente tutto quello che è la vita reale di una pianta, piante in genere, e quindi altrettanto per le rose. E quindi oggi si capisce perché tutto quello che si è immaginato un tempo per come si muovono, quello che fanno, si capisce oggi il perché. Però insomma è sempre una cosa, come ha detto lei, emozionante veramente. Ti regalerò una rosa rossa per dipingere ogni cosa, una rosa per ogni tua lacrima da consolare, e una rosa per poterti amare. Abbiamo avuto tutte le istruzioni per far arrampicare rose sui nostri alberi, il migliore ad accoglierle, l'asiatico Melia Zedarak. Un bel paesaggio, una volta distrutto, non torna più. Andrea Zanzotto. Creiamo un paesaggio nel nostro piccolo, sul nostro balcone, da ammirare da dentro casa. Possono bastare vasi di rose rampicanti. Prendete carta e penna, perché tra un attimo Marisa del Bufalo ci consiglierà quali scegliere e come coltivare. Il giardino segreto. Bentornati, siete in compagnia del Giardino Segreto. In buonissima compagnia, direi, perché è con noi colei che nella metà del Novecento ha creato dal nulla uno dei giardini di rose più famosi e apprezzati non solo d'Europa ma del mondo, Marese del Bufalo. Il suo giardino a Valleranello, Roma, è costellato di alberi su cui sono state fatte arrampicare delle rose. Ma questa signora, orgogliosa dei suoi 90 anni compiuti ad agosto, sa apprezzare anche le rose in vaso, quelle che possiamo portarci sui nostri balconi di città. Sentiamo riguardo i suoi consigli. È il tempo che tu hai perduto per la tua rosa, che ha fatto la tua rosa così importante. Antoine de Saint-Exupéry. Allora, intanto cominciamo subito dai vasi. Se uno vuole in un terrazzo una rosa, diciamo, rampicante, deve assolutamente prendere un vaso che non sia tanto grande. Non è necessario più di 35x35, anche un quadrato, però perlomeno deve avere 60 centimetri di profondità. Ci sono questi vasi alti, alti e stretti, no? Ecco, questo è necessario per l'arrampicante. Perfetto. Perché la profondità della radice e poi di conseguenza c'è l'arrampicante. Quindi ci sta già consigliando un arrampicante. Ecco, beh, direi di sì, perché l'arrampicante si può appoggiare a un muro, si può appoggiare a un reticolato che si mette a divisione magari tra un terrazzo e un altro, non lo so. E ci sono anche delle rose a cespuglio, per carità. Però certo che l'arrampicante si può vedere bene da dentro casa, capisce? Quando c'è la prospettiva della finestra. Certo. No? E quindi io penso che l'arrampicante serve. Intanto fai un pergolato e si riempie, oppure come divisione, no? Da un'altra parte per non essere vista dal vicino, a destra e a sinistra. E quindi una rampicante sicuramente. E gode meglio, perché riesce a prendere più aria. In genere in un terrazzo c'è meno aria che su un giardino. E cosa molto importante invece, perché la rosa soffre nello stare chiusa, nello stare in un ambiente dove non circola bene l'aria. Chiarissimo. Ecco, è più facile che prenda malattie in quel momento. E allora ecco che la rampicante invece ha più possibilità di fare questo. Quale rosa ci consiglia? Oh, guardi, io ho sempre visto la Claire Martin, è un rampicante, guardi, stranamente moderno, no? Quindi consiglio già subito un moderno. La Claire Martin ho visto che funziona benissimo come rampicante in città, addirittura l'ho fatta mettere anche a Milano, me l'hanno chiesto. Provate, state contenti. Ha una fioritura rosa deliziosa, una fioritura completa, quindi e resiste bene in vaso. Ecco, quello che è necessario è che sia una rosa che sta bene Claire in vaso. Claire Martin. Sì, Claire Martin. Ma è rifiorente? No, è rifiorentissima, certo, rifiorente molto. Ma non è profumata? Ovviamente, guardi, non una cosa c'è. Però se vuole le profumate, allora passiamo alle noisette. Le noisettiane, che sono invece di prima del Novecento, già passiamo a cose più belle e che si trovano adesso, perché è un po' di tempo che noi vecchiotte che abbiamo desiderato queste rose siamo riuscite a farle trovare, ecco, in vivai. Finalmente. Ripetono. E allora tutte le noisette, guardi, sono intanto sono delle rose con dei fiori morbidi, sempre arrampicanti, con una giusta proporzione di dimensione della rosa, molto molto fiorifere, anche rifiorenti, sono quasi tutte rifiorenti, mi pare solo Claire Jacquier non rifiorisca, invece le altre rifioriscono tutte, molto molto belle. Io so che tra le noisette, perché io la seguo naturalmente, lei preferisce la Madame Alfred Carrière. Madame Alfred Carrière, ecco, quella infatti è la prima noisettiana che io ho messo e che poi ogni volta che progettavo un giardino, il primo nome di rose era sempre Madame Alfred Carrière. È una rosa bianca, rifiorente, profumata, ma noi gente di città con poca esperienza ce la possiamo permettere? Sì, come no? Ma sicuramente. Poi la trovate comunque, di vari seri, Madame Alfred Carrière ce l'hanno sicuramente. Quindi Madame Alfred Carrière si scrive. Sono tutti puffetti rosa, belli, morbidi. Qualche volta la sfumatura rosa e qualche volta con la sfumatura gialla, sembra impossibile. possibile, guardi, pensare una cosa del genere, invece è così, profumata, è bellissima. Senta, ma sulle rose ci aiuti, Maresa, perché lei già ci ha citato dei nomi che noi facciamo fatica a captare, perché spesso noi apriamo un catalogo di rose e vediamo dei nomi che non sappiamo pronunciare, figurarsi ricordarcelo e figurarsi associarlo poi a quella rosa. Come si fa a, non dico a imparare come lei, no? Basta dedicarsi. Ma in mancanza di un giardino di rose, ecco, quali modi abbiamo per avvicinarci a questo mondo, riuscire ad orientarci, capire quale preferiamo, capire quale possiamo scegliere? Ma intanto bisogna andare a vedere i giardini di rose. Quali giardini visitare allora? Ma intanto tutta l'Inghilterra, tutta la parte centrale dell'Inghilterra. Sopra Londra, nel Cotswold, ci sono i più bei giardini al mondo in tutti i sensi e particolarmente di rose. C'è un fatto che bisogna andarci giugno-luglio, perché tutto quello che noi abbiamo nei nostri giardini, che comincia a fiorire in primissima primavera e poi finisce alla fine di settembre, loro ce l'hanno fiorito in quel periodo tutto insieme. Ecco perché i loro giardini sono eccezionali, perché tutto fiorisce in un periodo ristretto, capisce? In Italia che ci può consigliare? Fineschi. Ma Fineschi è una collezione, non è un giardino. Consideratelo questo, se no può deludere da un certo punto di vista. No, ma mai, Fineschi non deluderebbe mai, perché ci sono tali fioriture. Però bisogna andare, diciamo, a maggio. Sì. Maggio inoltrato, anche i primi di giugno, ma forse no, perché già è troppo caldo. Perché lì è molto caldo, Ma diciamo a maggio trovate tutte le fioriture meravigliose, veramente, però considerando che è una collezione, cioè trovate tutti i pali uno vicino all'altro, ogni palo porta un rappicante che sale su in una certa maniera, mentre invece un giardino deve avere una composizione, un modo che sia aggraziato, che ci abbia un significato. Naturalmente. Ecco. Però lì, come rose, uno che vuole capire quali sono le rose che vuole, che desidera. Senta, allora io un giardino di rose lo consiglio io, quello di Valleranello, che è a Roma, il giardino di Maresa del Bufalo, perché lei è il suo giardino, è lei che l'ha fatto, che è visitabile. Che modalità? A maggio, sì. E bisogna assolutamente prenotarsi. Sa quanta gente mi arriva così improvvisamente? Io dico no, scusate, non è possibile. Non è un giardino come il Roseto di Roma, che si entra, quando è aperto si entra e si gira. No, c'è solo su prenotazione. Sono tutte visite guidate. Visite guidate nel mese di maggio, Valleranello. Nel mese di maggio. Quindi c'è un numero di telefono, mi telefonano. E io, se sono dei gruppi, gli do un giorno. Se sono gente isolata, li posso unire a qualche gruppo, perciò così è possibile. Però posso chiederle, prima di salutarla, qual è la sua rosa in assoluto preferita? Non ce l'ho, oggi dopo tanti anni, oramai sono più di 60 anni, non posso dire di averne una preferita, è tutto il mio giardino meraviglioso, però tra le tante, se posso dire così in linea di massima, dimmi un nome, io dico, come ho già detto, le noisette. D'altro canto considerate che Madame Alfred Carrier è una noisettiana, capito? Quindi rimaniamo sulla Madame Alfred Carrier. Insomma, sì. È una grande rosa. Ho parlato di Claire Martin perché è una rosa che sta bene in vaso. Ha fatto bene. Capito, questo è interessante. Un'altra domanda, che cosa regala, rose o non rose, un giardino alla vita di una persona? Oltre alla fatica, perché siamo lucidi su questo. Ma la fatica e il piacere sono tutti insieme, veramente. E questo fa parte del contadino, no, in genere. E si deve diventare contadini, nel senso, si devono mettere le mani nella terra. Se tu sei solo un proprietario che ha tanti giardinieri, che guarda quello che viene fuori dalla fatica degli altri, ha meno soddisfazione, devo dire. Io sono stata una potatrice del mio giardino prima completa, ero una scimmia sugli alberi per poter potare le mie rose. Ho delle fotografie che mi ha fatto mio marito che sono veramente addirittura ridicole, però io ho fatto tutto nel mio giardino, di tutto, e adesso non lo posso più fare e sono proprio arrabbiata. Beh, ci credo che è un po' arrabbiata, perché davvero chi ha un giardino e lo affida a qualcun altro si perde senz'altro il meglio. Esatto, esatto. Io ho vangato, io ho fatto di tutto. E mi è piaciuto, non è che potevo anche... Non farlo. Farlo fare, secondo me non è la stessa cosa. Ecco, io questo dico, mettete le mani nella terra, perché allora le grandi soddisfazioni arrivano veramente. Direte, ma perché? Che vuol dire? Non lo so. Non ve lo so dire. No, ma chi lo fa poi si chiede perché non l'ho fatto prima. Poi lo capisce. Quando si tocca una pianta e tu sai che temperatura c'ha quell'albero o quella rosa, la tocchi, senti le spine, senti tutto, conosci profondamente una pianta, solo allora puoi capire il valore. Quando nel Piccolo Principe dice... Quella rosa è uguale a tante altre, ma quella è la mia rosa. E questa è la differenza, capito? Abbiamo capito. Grazie, no. Grazie infinite a Marisa del Bufalo. La ringrazio io. Mi raccomando, scegliete bene e piantate bene. E lavorateci. Salirò, salirò fra le rose di questo giardino. Salirò, salirò fino a quando sarò solamente un punto lontano. Salirò, salirò, salirò, salirò tra le rose di questo giardino. Salirò, salirò fino a quando sarò solamente un puntino. Lontano. Claire Mathain, Madame Affrecarrière e in generale le noisette sono le rose consigliate da Maresa. E ricordatevi i vasi, è importante che siano alti e non troppo larghi. In ogni caso, vi foste persi qualcosa, potete riascoltare questa come le altre puntate in podcast. Basta cercare Il Giardino Segreto in www.radio24.it. Ci sentiamo domenica prossima alle 15.30. Grazie a Gianmarco Ferronato che ha curato la regia, a voi per l'ascolto. Una buona settimana da Roberta Pellegatta.